perdere sul tempo passato, su quello perduto che non tornerà più. Nei tuoi castelli, sogni non risolti, desideri svaniti come sabbia nel vento. Ma questo orologio non si ferma più, ma questo orologio non si ferma più. Sperare di fermare il tempo e rivivere ancora con te le tue emozioni, la tua giovinezza, vederti crescere, diventare una donna. Ma questo orologio non si ferma più, ma questo orologio non si ferma più. Mi rimane solo la speranza che tu mi abbia perdonato di non esserti stato vicino quando avevi bisogno di me. Ma questo orologio non si ferma più, ma questo orologio non si ferma più. Ma questo orologio non si ferma più, ma questo orologio non si ferma più.